Perfetto, allora direi che possiamo cominciare. E io mi chiamo Gabriele, modererò questo incontro un po' chiacchierata, diciamo. Sono il referente di Trento per Italia Unita per la Scienza, che è un movimento culturale che organizza questi eventi di divulgazione scientifica in tutta Italia. E quest'anno stiamo organizzando una serie di eventi che si chiama Capiamo il Pianeta. E qui a Trento questo è il primo dei tre principali eventi che si terranno. I prossimi due saranno la settimana prossima, come vedete sui volantini sui tavoli, mercoledì sera alla Sala Datei, Teatro No, sulla scienza e il metodo scientifico, e successivo sarà invece martedì 19 presso il Muse sull'UGM, e siete tutti invitati a partecipare. Il gruppo organizzatore di Trento è composto da 21 ragazzi, principalmente di studenti di università, e i due principali organizzatori di questo incontro sono Davide, che è qui davanti, e Giovanni, di Pietro. E quello di cui parleranno oggi il lievito, come viene utilizzato sia per produrre birra che nella ricerca contro il cancro. E ce ne parleranno Cristiano Fais, che è mastro birraio del birrificio artigianale Lezia, e il professor Alberto Inga, che è professore associato di genetica presso l'Università di Trento. E bando agli indugi, lascio la parola a loro. E faremo prima un'introduzione da parte di Cristiano e poi da parte del professor Inga, e quindi ci sarà uno spazio libero per discutere con voi qualsiasi domanda o perplessità. Non abbiate paura a porre domande, diciamo. Prego. Ok, allora, tanto ciao a tutti. E niente, allora, vi parlo subito di questi famigerati lieviti. Non voglio essere tecnico, anche perché di per sé la mia formazione non è proprio tecnica, più da appassionato. Allora, io vi farei subito iniziare a vedere come li uso io i lieviti. Sostanzialmente non vi parlo del processo di produzione della birra. Partiamo dal fatto che ho già fatto la birra, quindi ho un mosto dolce da fermentare. In questo caso è simulato da, vabbè, un po' di acqua tiepida e non si taglia. Allora, questo processo che sto facendo si chiama attivazione. I lieviti in questo stadio sono secchi, sono dei lieviti appunto sottovuoto, conservati sottovuoto, e sono secchi. Di solito in birrificio si fa questa operazione in una bacinella, ovviamente tutto ovviamente molto sterile. Noi usiamo un contenitore sterile che laviamo con dell'acido per acetico, in modo che sia tutto perfettamente sterile. Il lievito in questa fase qua, il lievito sostanzialmente si reidrata, che vuol dire che insomma proprio si bagna e ritorna a quello che è la sua forma per la fermentazione. Fa un po' di grumi, ovviamente. Allora, in questo processo qua, essenzialmente, i lieviti, dovete pensarli, ve lo spiego come mi hanno sempre spiegato a me una ragazza, si chiama Erika Pedrini, che è l'enologa di una cantina, forse la conoscete, la cantina Pravis. Mi è sempre stata dietro. Voi dovete pensare ai lieviti come a delle piccole persone, insomma degli adolescenti un po' viziati, che quando si tratta di fermentazione, quindi bisogna trattarli come tali. Allora bisogna riattivarli in acqua tiepida, non fredda, perché ovviamente se voi vi svegliano la mattina con un secchio d'acqua fredda, insomma vi gira un po' le scatole. Quindi acqua tiepida, loro piano piano 10 minuti si reidratano, dopo 10 minuti ovviamente vi svegliate, avete fame, quindi devono iniziare a mangiare qualcosa. Qua infatti c'è lo zucchero, ci sarà lo zucchero, lo aggiungeremo fra 10 minuti quando sono tutti belli reidratati. Nel processo di fermentazione sostanzialmente il lievito non fa altro che mangiare lo zucchero che trova diluito in una sostanza. Quello della birra sostanzialmente è un mosto dolce ricavato dall'estrazione degli zuccheri e dal malto. Quindi fondamentalmente inizia così: io ho questo mosto dolce pompato all'interno di un fermentatore e al quale vado a inoculare i lieviti. I lieviti sostanzialmente iniziano a mangiare quello che è lo zucchero, e quello che producono è alcol e anidride carbonica. Questi sono i due principali prodotti del lievito, ecco. E ci sono molte incognite nella fermentazione. Diciamo che come rischio a livello a rischio di impresa, il lievito è forse quello, per un birrificio è forse il maggior rischio, nel senso che io posso fare benissimo il processo di estrazione degli zuccheri e arrivare a un mosto dolce, se non ho un lievito che poi mi porta a fermentazione tutto questo mosto, lo trasformo in birra, lì insomma devo buttare via magari 10 ettolitri di birra perché non mi ha fermentato bene. E un'altra cosa da dire, vabbè, ci sono miliardi di ceppi di lievito differenti, come potete vedere. Io come birra noi ne facciamo, vabbè, ne ho portate 6 stasera, ne facciamo 7. Con 7 tipi di birra noi usiamo 5 tipi di lievito diversi. Ogni lievito sviluppa un profumo, un aroma diverso, a seconda della birra che si vuole ottenere. E poi che altro dire, appunto, il lievito viene inoculato, inizia la fermentazione e dopo un po', quando la fermentazione è finita, sostanzialmente il lievito si addormenta e precipita sul fondo del fermentatore, quindi e crea quella che viene chiamata in termine feccia, che non è altro che una specie di budino, diciamo, che ha questo colore qua. Si scarica la feccia, la birra si allimpidisce e una volta che la birra è limpida si può imbottigliare. E quando si parla di birra artigianale si parla di una birra non filtrata, non pastorizzata e di solito è rifermentata in bottiglia. Quindi il lievito è doppiamente importante, perché se per una birra industriale il lievito ha la sua importanza perché deve comunque fermentare, poi in bottiglia una birra industriale si va a perdere il lievito, perché viene filtrata, viene pastorizzata e viene gasata. La birra viene gasata in maniera artificiale, viene collegata a una pompa di CO2, di anidride carbonica, e si gasa la birra. Nella birra artigianale, proprio perché il lievito non viene né filtrato né pastorizzato, quindi non viene ucciso, io vado a imbottigliare e poi quando imbottiglio aggiungo 5-6 grammi/litro di zucchero e, come fosse uno spumante metodo classico, tappo la bottiglia e la birra rifermenta in bottiglia. Ovviamente la CO2 non può uscire e quindi si va a legare al corpo della birra. Quindi è doppiamente importante il lievito nella birra artigianale, proprio anche per la seconda rifermentazione, la fermentazione in bottiglia. E anche questo è un fattore molto importante, perché se si pensa magari a tradizioni brassicole come quelle del Belgio, la presenza del lievito nella birra è molto importante per il suo corredo aromatico che si porta dietro. E troverete, se voi andate in Belgio e entrate in una birreria, il 99% delle birre ve le serviranno torbide. E se provate a chiedere me la fai limpida, uno ti guarda male, magari te la fanno anche sì la birra limpida, però ti guardano male. Tendenzialmente quando ti servono una birra dalla bottiglia, prendono la bottiglia, la girano, sul fondo si è depositato il lievito che ha rifermentato, la scuotono così e poi ti servono la birra che deve avere una velatura omogenea. Questo perché? Perché appunto i lieviti, soprattutto del Belgio, si portano dietro veramente un loro profumo, un loro marchio, ecco. Pensate che i birrifici che hanno tradizioni secolari in Belgio hanno i loro ceppi di lievito depositati in banche svizzere, quindi nel senso ogni birrificio ha il proprio ceppo di lievito e insomma guai a toccarlo, ecco, fondamentalmente. Allora io adesso intanto prendo un po' di zucchero, vedo che si sta facendo la pappetta. Adesso fa così. Va per sopra adesso. Ma direi che può bastare. Vediamo intanto. Ecco, adesso fondamentalmente abbiamo lasciato un po' di tempo per reidratarsi. Adesso abbiamo aggiunto lo zucchero, ovviamente lo zucchero non ha nulla a che fare con la birra, però è sempre fermentabile, quindi il lievito, tutto quello che è fermentabile, lui se lo mangia, diciamo, e produce alcol. Che vuol dire sostanzialmente i lieviti si dividono in due famiglie per quanto riguarda la birra, poi nel senso, questo è quello che mi riguarda, in due famiglie: lieviti ad alta fermentazione, che vuol dire che lavorano tra una temperatura che va dai 15 fino ai 25 gradi, e lieviti a bassa fermentazione invece che, che lavorano tra i 4 e i 12 gradi al massimo. Questi due ceppi di lieviti danno delle tipologie di birra differenti. I lieviti a bassa fermentazione, i lieviti lager e i lieviti pils sono quelli che danno proprio queste birre, le pils, le lager cecoslovacche, le lager tedesche, comunque birre a bassa fermentazione. Tendenzialmente hanno dei profumi molto più leggeri, più delicati, non sono esplosivi, non sono invadenti. I lieviti ad alta fermentazione tendenzialmente sviluppano degli aromi un pochettino più pungenti. E noi usiamo solo questi proprio perché non abbiamo anche i fermentatori a temperatura controllata, quindi non posso far fermentare la birra magari a una temperatura costante sui 5 gradi. E quindi noi facciamo solo birre così, e anche perché come stile ci piacciono di più queste birre ad alta fermentazione, sono molto più... belle secondo me da assaporare essendo artigianale. E poi non so che esatto, non so se hai concluso, possiamo lasciare sul sì, Rico, se c'è qualcuno che ha domande prima di passare alla prossima tematica, prego. Noi dal paese d'origine dello stile birraio, della birra, cioè nel senso, se io faccio una birra in stile belga, il lievito mi viene, lo importo dal Belgio, quindi allora, queste cose, cioè se volete la do, sono dei lieviti secchi, quindi mi arrivano queste buste da un chilo, sotto vuoto c'è scritto prodotto dal Belgio, importato dal Belgio. Ci sono ovviamente dei vari ceppi di lievito da scegliere, in Belgio ci saranno 10.000 ceppi di lievito disponibili. Noi prima di aprire il birrificio, ovviamente erano 4 anni che facevamo birra, abbiamo sperimentato tutti i vari ceppi di lievito ovviamente. Facevamo la stessa birra, lo stesso mosto, e lo facciamo fermentare con diversi tipi di lieviti. Diciamo, ci sono lieviti molto caratterizzanti, quindi vuol dire che poi al naso la birra sa veramente di lievito, e lieviti un pochettino più neutri, più tranquilli, che lasciano il profilo aromatico della birra più neutro. Però sono tutti importati dal paese d'origine. Soprattutto le due americane vengono dalla California, i lieviti che ci facciamo andare dalla California. Altre domande? Allora prego. Ok, allora sono Alberto e vi racconto qualcosa sul lievito da un punto di vista che si sovrappone e in parte diverge da quello che abbiamo sentito adesso. Magari partiamo dalla California che hai citato, sì. Quindi un paio di lieviti della California, e vi propongo un brindisi virtuale, poi magari la prenderemo anche, però per adesso è un brindisi virtuale, no? Il brindisi ha questo glorioso microorganismo che si chiama Saccharomyces cerevisiae e che ci dona dei meravigliosi prodotti come il pane, il vino e la birra, grazie anche poi all'impegno e alla passione di persone che la producono. E questo non è un brindisi che ho inventato io, non sono così fantasioso, ma l'ho preso da un incontro che diversi ricercatori hanno fatto nel 2007, per commemorare la scomparsa di un famoso genetista che ha lavorato quasi tutta la sua vita a Berkeley, quindi siamo in California. Si chiamava Robert Mortimer ed è la storia forse di chi più di altri ha costruito la comunità di ricerca che utilizza questo stesso microorganismo per scopi di ricerca scientifica di base e magari anche per alcune applicazioni di ricerca che sono cosiddette più traslazionali, che cercano di capire qualcosa che abbia magari un valore per quello che succede nel nostro organismo, nelle nostre cellule. Quindi questo è Robert Mortimer e il brindisi è la frase finale di questo elogio scritto da Jasper Ryan, che è un suo collaboratore e anche studente inizialmente. E perché è interessante questa storia? So Robert Mortimer essenzialmente ha passato tutta la sua vita appassionato a questi oggetti, a questi microrganismi, Saccharomyces cerevisiae, ed è un ricercatore a tutto tondo, non solo perché ha raggiunto fama, maturità, un sacco di premi, ma perché ha costruito una comunità, la comunità di ricercatori del lievito, di cui ancora oggi usiamo e subiamo positivamente la cultura e sfruttiamo le risorse che sono state ottenute. Quindi stiamo parlando dello stesso lievito, Saccharomyces cerevisiae, che per il ricercatore, diciamo, di base è un sistema modello, è una cellula eucariotica che ha un suo ciclo di vita ben caratteristico che approfitta della situazione ambientale, quindi si mangia gli zuccheri, e cresce e cerca di sopravvivere magari sulla buccia di alcuni frutti, per esempio Mortimer ne isolò dei ceppi da fichi, da fichi marci, e fece le prime sue colture isolando questi ceppi naturali, e in quanto cellula ci consente di studiare quello che è il funzionamento e gli ingredienti che compongono la cellula stessa. E, per esempio, il lavoro di Mortimer ha aiutato a capire come mai questo signore qui adesso sta cominciando a produrre del gas, della CO2, quindi a utilizzare lo zucchero. E si è scoperto, con molti anni di lavoro, che si tratta di processi complessi. Per esempio, per digerire il maltosio, il lievito contiene alcuni ceppi, perlomeno più di 20 geni diversi, quindi 20 istruzioni nella scritta in DNA che producono proteine che sono importanti per acquisire la molecola dall'esterno e cominciare a processarla e alla fine arrivare ad utilizzarla producendo energia e liberando la CO2, che è quella che potremo vedere venire fuori. Quindi la storia finisce nel 2007, ma la ricerca sul lievito, la genetica del lievito, ha attraversato un pochino il secolo scorso. E per chi ha studiato la genetica tradizionale, segue un po' quella che era la ricerca basata sui moscerini della frutta, le stanze delle mosche, eccetera, eccetera, che poi chiediamo sempre all'esame. E quindi anche qui è una storia che può essere appassionante, perché racconta anche di diversi periodi storici, di come la comunicazione delle informazioni era difficile al tempo. Per esempio, i lieviti che stiamo usando qua sono probabilmente dei ceppi aploidi, o potrebbero essere dei ceppi diploidi. È difficile dirlo guardando queste palline che sono qui seccate. Ma la prima intuizione che i lieviti potessero avere due tipi di vita, cellule più piccole con una sola copia di informazione per ogni gene, cellule un po' più grandi che avevano due copie, come le nostre cellule, che sono diploidi, e la si ebbe nel 1918, periodo storico particolare, grazie all'intuizione e alla ricerca di uno studioso nella Repubblica Ceca, che scrive il suo resoconto e lo fa nella lingua che conosceva, che era quella della sua terra. E quindi questo articolo rimane praticamente sconosciuto. Qualcuno magari pensa a Mendel, ci sono dei parallelismi qui, no? Quindi abbiamo una storia che nel 18 dice delle cose che nessuno riesce a leggere, e nel 1935 un altro ricercatore che era in qualche modo affiliato al laboratorio Carlsberg, famoso laboratorio da cui ancora oggi possiamo attingere prodotti, e riscopre le stesse cose. Poi si rende conto che qualcuno l'aveva scoperto 20 anni prima, si arrabbia come un bel po' e dice: ma perché non sono state scritte in inglese e nessuno legge? Quindi incidenti di percorso, tempo perso, ma poi la ricerca va avanti e oggi ci dà la possibilità di utilizzare questo microorganismo per fare delle cose che sono molto sofisticate. Quindi, che cosa sappiamo oggi del lievito? Ve ne ho portate di due caratteristiche, questo qualcuno l'ha già visto, è un lievito un pochino gigante, perché la dimensione naturale noi la dovremmo mettere 500 in fila, e quando arriviamo a 500 abbiamo fatto circa un millimetro, quindi stiamo parlando di una cellula molto piccola. E questo è un lievito Saccharomyces cerevisiae, non assomiglia molto alla realtà, però ha delle tracce qui che sono rappresentano un fenomeno reale. Queste sono cellule, sono organismi unicellulari che si riproducono per gemmazione, quindi il figlio o la figlia, difficile chiamarla in questo modo, nasce e cresce attaccata alla cellula di partenza, e quando si stacca rimane una cicatrice. E quindi chi ha disegnato questo oggettino ha pensato di decorare la testa della mamma, ma questo ricorda una cosa importante che in biologia ci ha aiutato a capire delle cose che sono ancora parzialmente comprese, ovvero come si fa a stabilire la polarità cellulare. Quindi i figli tendono a nascere tutti dalla stessa parte, e i figli sono, quando nascono, molto più piccoli della mamma. Quindi come facciamo a separare bene gli oggetti che sono dentro la cellula madre, gli oggetti della cellula figlia? Come facciamo a capire cos'è il sud e il nord? Tutto questo è molto complicato, anche se stiamo parlando di un, se volete, banale microorganismo. Allora, da qui forse potremmo raccontare un'altra piccola storia, questo diventa troppo lungo, che è quella di Brian Cox, Brian Cox è un altro genetista di lievito, è inglese, e un giorno decide di scrivere un piccolo editoriale su una rivista scientifica, quindi non è stata letta da molti, ma il titolo era emblematico, perché diceva Saccharomyces cerevisiae, un mammifero ad honorem. E questo titolo, la spiegazione di questo titolo dell'editoriale era in ragione del fatto che se noi leggiamo quello che c'è dentro questa cellula e andiamo a leggere il DNA, che è l'informazione codificata nei cromosomi del lievito, qui dentro ci sono 16 cromosomi, noi ne abbiamo 23, il genoma di questo oggetto è circa 1000 volte più piccolo del nostro, ma per fare un lievito ci vogliono più o meno 6000 geni. Per fare un uomo ce ne vogliono circa 26-28 mila, lasciamo perdere quelli non codificanti. Quindi non c'è poi una grandissima differenza tra me e lui, a parte gli occhiali. E di questi 6.000 geni che fanno un lievito, circa il 25% li abbiamo in comune, cioè li abbiamo ereditati insieme da un antenato comune che forse era ancora più semplice di questa cellula. Quindi perché mammifero ad onore? Perché è possibile studiare cellule di lievito, ovviamente no, non fatte di questo materiale, ma vere cellule di lievito, se volete, queste sono colonie di lievito su substrato semisolido, su AGA, per capire qualcosa di questo 25% dei geni che abbiamo in comune, quindi capire come le cellule si dividono, come le cellule trasportano proteine da un punto all'altro, come le cellule digeriscono le sorgenti di carbonio, come le cellule copiano DNA, come lo riparano, come lo trascrivono, insomma possiamo imparare tante cose. E c'è chi anche ha pensato di usare il lievito come cellula semplice, poco costosa, che cresce facilmente con dello zucchero di fatto, per esempio testare l'efficacia di farmaci che poi possono essere dati anche a pazienti, per esempio farmaci oncologici. E quindi il lievito è diventato un modello per capire alcune patologie umane, patologie dei mitocondri, patologie della riparazione del DNA e patologie della proliferazione eccessiva. Quindi insomma coesistono nel gruppo di ricercatori di lievito queste due anime, no? Chi si dedica al lievito come organismo per la produzione di fondamentali prodotti e chi invece lo usa poi per questo aspetto di base. Quindi per chiudere con Mortimer, dove abbiamo iniziato, lui finisce la sua carriera di insegnante, di ricercatore nel 91, ma non lascia la California e si continua la sua passione, e quello che farà è andare in giro a Napa Valley a interagire con i vari produttori di vino per cercare di convincerli al valore del lievito autoctono presente sulle uve nella produzione del vino e nel generare del vino che ha delle caratteristiche specifiche particolari. Quindi nasce, grazie anche a Mortimer, questo secondo aspetto, l'interesse dei ceppi naturali, che ovviamente non sono come quel ceppo che sta girando lì, fanno delle colonie un po' meno precise, fanno delle colonie un po' diverse una dall'altra, quindi ci sono e hanno delle caratteristiche uniche che possono però contribuire anche al prodotto finale, come ci raccontava Cristian per la birra. Infatti, a proposito di lieviti, comunque indigeni si chiamano, che è quello che si trova sulle bucce dell'uva, che adesso tendenzialmente un bravo vignaiolo non va più a usare un lievito selezionato come questo qua, che vedete qua, ma si lavora bene in vigna, si lavora bene tutto l'anno. E sulla buccia, la buccia è ricca di lieviti indigeni che sono, diciamo, stanno bene, quindi poi in fermentazione non vanno a dare problemi. Le cantine invece grosse, diciamo, non possono permettersi questo rischio di dire ok, io presso l'uva e lasciamo che madre natura faccia quello che voglia, perché se magari devo buttare via un silos con dentro 1000 ettolitri, lì sono un investimento che poi insomma va in fumo. Invece il vignaiolo che lavora bene tutto l'anno ha poi un'uva molto, molto sana, molto buona, e di conseguenza anche i lieviti presenti sulla buccia sono molto buoni e vanno a fare una fermentazione molto più naturale, più spontanea, con dei profumi, come vi dicevo prima, con dei profumi molto più freschi, più fruttati, se volete. E nelle birre questa cosa qua si faceva prima appunto della scoperta che esistessero questi lieviti. Sostanzialmente una volta quando si faceva la birra, si era capito che mescolando l'acqua con l'orzo si estraeva lo zucchero in qualche modo, e poi cosa si faceva? Si prendevano questi barili di legno, si mettevano all'aria aperta, cosa che fanno ancora in Belgio, in una valle, in una singola valle, e dove si producono delle birre chiamate Creek, Frambose o Lambic, sono tutti, questi tre nomi sono, identificano delle tipologie di birra che fermentano in maniera spontanea, nel senso che appunto si prende questo tino di legno con dentro questo mosto dolce che si è estratto dal malto e si lascia all'aperto su queste terrazze in questa valle molto ventosa, dove nel vento sono presenti questi lieviti selvaggi che vanno a intaccare, ovviamente, come si è detto prima, è un microrganismo che è, diciamo, vorace, qualsiasi cosa che riesca, insomma, a sostenerlo lui lo mangia, e quindi inizia una fermentazione che è spontanea, naturale. Queste birre non sono birre, se non le avete mai assaggiate fatelo, però non rimaneteci male, perché sono delle birre molto molto particolari, sono delle birre acide, perché ovviamente la fermentazione parte dopo magari una, due, tre settimane, parte molto lentamente, quindi si vanno ad aggiungere, oltre al lievito classico che fermenta, anche dei batteri acetici, dei batteri lattici, e quindi vanno a portare anche acidità nella birra. Sembrano quasi delle birre andate a male, diciamo. Sono molto particolari. Poi dopo si è scoperto appunto l'esistenza di questo microrganismo, si è imparato a coltivarlo, a, diciamo, trattarlo come si deve essere trattato, e adesso beviamo queste birre qua. Però in Belgio ci sono ancora questi birrifici che fanno queste birre, che sono delle birre molto molto complesse, molto molto particolari, perché poi hanno un invecchiamento anche in legno, quindi poi vi trovate nei bicchieri una birra che in Belgio la chiamano vino d'orzo, non la chiamano più birra, perché tendenzialmente sono delle birre molto alcoliche, che superano i 10 gradi, e quindi sono birre acidi, invecchiate nel legno, quindi vengono trattate come fosse un vino. E sono molto particolari, se vi capita veramente andatele a assaggiare, non penso che piacerà forse a un 10% di voi, perché sono veramente molto particolari, però è un prodotto interessante, lì vi fa capire veramente madre natura cosa può fare, cioè prendo qualcosa, lo lascio lì e fa tutto lui. Come potete vedere qua il lievito è partito alla grande, se lo lasciamo qua altri 10 minuti va per sopra, e niente, questo, come vi dicevo prima, è quello che faccio io in birrificio sostanzialmente. Prima di inocularlo 10 minuti, un quarto d'ora, lo riattivo, non gli aggiungo zucchero ovviamente, gli aggiungo un po' di malto concentrato che prelevo dalla cotta, dal mosto, lo raffreddo e poi lo metto a fermentare, in modo che il lievito si abitui a mangiare quello che poi troverà nella vasca, nel fermentatore, perché se io già gli do lo zucchero, lui si abitua a mangiare il zucchero, che è una molecola diversa poi da quello che è il maltosio. E quindi io lo abito a mangiare quello, lo vado a inoculare nel fermentatore e qua appunto avviene il processo di fermentazione, un processo molto delicato e rischioso tra virgolette, perché a volte capitano delle partite di lievito, non a me per fortuna non è ancora capitato, delle partite di lievito cosiddetto stanco, nel senso che a metà fermentazione il lievito è proprio stanco, nel senso che non ce la fa più a mangiare e quindi si addormenta e va sul fondo, e quindi magari una birra che doveva fare 6 gradi mi viene fuori da 4,5, una birra dolce, quindi qua è un po' un rischio, un problema, perché di solito o si butta via la birra o si può fare vie estreme, si toglie tutta la feccia, si toglie tutto il lievito e si fa un reinoculo di un altro lievito, però lì devi andare su dosi massicce, perché il lievito che era presente prima nel fermentatore ha creato un suo ambiente, un suo pH. Il nuovo lievito che arriva deve ricontrastare quello che è quello che c'era prima. Quindi poi hai una birra che magari sa tanto di lievito, perché ne devi sovradosare di lievito questo mosto che si è bloccato. Problemi di questo tipo ce ne sono veramente tanti. Poi il grosso discorso è quello della temperatura. Come vi dicevo prima, il lievito ha dei range di temperatura. Superati quelli, se il mio range è tra 15 e 25, se sto sotto i 15, 14, 13, il lievito magari lavora, però è sotto stress, quindi magari mi si blocca la fermentazione. Se invece va sopra i 25 gradi, lavora tantissimo, mi mangia tutto lo zucchero magari in 2 giorni invece che mettersi una settimana, però al tempo stesso è come fare una grande abbuffata. Lui produce delle sostanze, degli esteri molto sgradevoli poi, cioè dicendo, è veramente come fosse una persona che si fa una buffata tremenda e poi sta male e di conseguenza produce delle sostanze sgradevoli poi nella birra. Questi sono i problemi bene o male di fondo nel processo di birrificazione. Infatti i fermentatori di solito in un birrificio moderno sono a temperatura controllata, ci sono delle serpentine all'interno della camicia del fermentatore che tengono costante la temperatura a 20 gradi. Noi per esempio condizioniamo l'ambiente con dei condizionatori che tengono tutto l'ambiente a temperatura controllata. E, niente, questo era grosso modo il processo. Avete domande per uno o l'altro dei relatori? Io sì, io avrei una domanda che in realtà è rivolta a entrambi, perché se già solo per uccidere il maltose, si vogliono 20 diversi generi. Per creare alcune molecole esteri o alcuni complessi che danno l'aroma diverso di vita, si sa più o meno quali, quanti, in che modo i geni influiscono questo effetto, perché ovviamente per creare le molecole complesse servono vari momenti di un'area. Quindi non so come mai porta da un unico qualitativo, non so che sia. Guarda, io posso dirti, nel senso so che comunque la ricerca per quanto riguarda il mio settore della birra sta arrivando a livelli allucinanti, nel senso che c'è una specializzazione veramente portata agli estremi, cioè, a volte quasi è ridicolo, perché nel senso ci sono magari birrifici artigianali che lavorano benissimo, si sono sviluppati il loro ceppo, arriva un altro birrificio lì vicino, cambia, come si diceva, una piccola percentuale in modo da non essere querelato e si produce anche lui la sua birra. E c'è veramente uno studio settoriale immenso, se si parla soprattutto di birrifici industriali, lì si va magari sull'efficienza del lievito, magari sull'artigianale si cerca più la complessità aromatica del lievito e comunque l'ampiezza degli aromi che mi può lasciare nella birra. Invece per quanto riguarda i birrifici industriali si sono dati da fare negli ultimi anni per arrivare a un'efficienza del lievito che deve essere sempre 100%, non esiste che neanche il 99,9%, perché se quella cotta va male, lì vuol dire che magari devo buttare via 1000 ettolitri di birra. Quindi si sono specializzati su, non dico organismi geneticamente modificati, però dei lieviti super mega dopati, tra virgolette, nel senso sono veramente portati all'estremo, vengono sì, il termine che mi viene da dire è veramente vengono dopati prima della fermentazione, come dare a un atleta il doping prima di fare la sua prestazione, per essere sicuri che tutte le volte il prodotto sia quello e deve essere quello fondamentalmente. Quindi sì, c'è uno studio veramente allucinante per quanto riguarda i lieviti, nel mio settore veramente stanno cercando l'impossibile. Credo si possa aggiungere qualcosa. Qui si vede anche, ritornando a questo Mortimer, no? Il personaggio per la mia parte della serata, quello che lui fece è lasciare un'eredità di circa 5.000 ceppi di lievito mutanti. Quindi il grande vantaggio di questo microorganismo, che si è apprezzato nel tempo fino ad oggi, è quello che, se è vero che ha bisogno di 6.000 geni per esistere, in realtà può fare a meno di circa 4.000 di questi se ne togliamo uno alla volta. E quindi questo rende facile la possibilità di studiare l'effetto dei mutanti. E l'altro grande valore di Mortimer è quello di aver creato la cultura della condivisione, e quindi è proprio nata una comunità di ricercatori che un giorno hanno deciso, è venuto il momento di sequenziare il genoma del lievito, ognuno di noi fa un pezzettino di una certa lunghezza, ci dividiamo tutto il genoma, poi mettiamo insieme i dati, e quindi si è avuto il primo genoma eucariotico sequenziato. E poi da questo sforzo è nata la seconda idea: perché non distruggiamo uno alla volta tutti i geni di lievito non essenziali, facciamo questa grande libreria di 5.000 ceppi, li rendiamo disponibili alla comunità e così vediamo che cosa può succedere nel fenotipo che ti interessa, che poteva andare dalla ricerca di base alla ricerca legata alla tolleranza dell'alcol, alla precipitazione dei ceppi, alla flocculazione, alla velocità di utilizzo delle sorgenti di carbonio, eccetera, eccetera. E quindi questo è uno dei grandi vantaggi che ancora oggi il lievito ha, quello di poter fare quello che viene detto il gene targeting, la delezione o il bersagliamento preciso di ogni gene di interesse. altre domande, abbiamo deciso che per fare domande bisogna prendere questo al volo. Quindi okay. Preparatevi. Chi lo fa cadere prende questo. Sapete cos'è questo? Questo è un nemico del lievito in alcune condizioni. Prendi qua. Ok? Vai. No, non ho parlato dei pesticidi industriali. Hanno dei brevetti sui tipi di lievito oppure danno soltanto a mantenere i suoi tendenzialmente si fanno una... tendenzialmente hanno anche dei brevetti. O magari non c'è, cioè, allora, hanno il ceppo di lievito depositato magari in banca, se fanno delle lavorazioni particolari sono quasi sicuro che comunque lo prevedono. Qualsiasi cosa ormai nel mondo moderno, se tu fai qualcosa di diverso e non ti tuteli, arriva il primo che si accorge che hai fatto qualcosa di diverso, ti scoppia l'idea e ti prende. Penso che veramente qualsiasi cosa a livello industriale viene tutto fatta, lo brevetta, ma anche solo nel sistema di produzione, io so veramente di brevetti su brevetti che magari cambiano la velocità con la quale gira una pala, capito? Ah, ho scoperto che c'è l'aumento di 500 giri in più, allora c'è questo brevetto, ma brevetti. Così qualsiasi altro birrificio, anch'io magari, che voglio fare un impianto, devo andare a pagare loro, quindi sono sicuro che oltre al ceppo depositato qualsiasi lavorazione facciano, no, guarda, noi cerchiamo di... Allora, il concetto di quello che ci piace a noi come idea del lievito, se dobbiamo lavorare a qualcosa, ci piace molto l'idea di lavorare con il lievito in digit. Il mio birrificio è in Valle di Lami, quindi come saprete c'è l'Ora del Garda, quindi è una valle molto ventosa, quindi mi piacerebbe fare dei test per vedere se nell'aria ci sono... c'è una buona dose di lievito indigeno per poter prendere anch'io la mia botte di legno, metterla fuori e fare queste birre che poi insomma sarebbero molto particolari. Ecco, io ne ho già parlato con i miei due soci ovviamente, però anche lì è un rischio a livello imprenditoriale, perché come vi dicevo prima sono birre uno molto particolare, non sai mai come viene fuori. Ogni cotta è diversa, nel senso che non hai una stabilità, neanche in Belgio comunque i grossi birrifici che fanno queste tipologie di birre. Il bello è proprio che ogni bottiglia è diversa, anzi su ogni bottiglia ti scrivono tendenzialmente il numero di botte da cui è proveniente. Quindi nel senso lì c'è proprio la ricerca, diciamo, maniacale del diverso. Se devo pensare a un qualcosa fatto con i lieviti qua in Trentino è proprio sfruttare i lieviti. Vediamo nei prossimi anni cosa diciamo meglio scuro. Ok, mentre facciamo portare via il lievito prima che sì, prima faccio io una domanda al professor Inca. Alberto. Ok. Prima Cristiano parlava del rischio di acquistare lieviti che siano stanchi, quindi non utilizzabili, eccetera. C'è questo rischio anche nella ricerca? Come si acquistano i lieviti? Sono importati? Come funziona? Sì, dipende. Chi lavora con lievito da un po' si è fatto il suo freezer pieno di ceppi e fortunatamente è un organismo che resiste molto bene allo stress termico, lo si può congelare con un po' di glicerolo, tenere a meno 80 questa soluzione congelata e le cellule rimangono vive, pronte a ricrescere e ripartire per decine d'anni. Quindi è abbastanza facile farsi la propria collezione. Normalmente c'è un passaggio di ceppi nei ricercatori, ci sono circa 10.000 persone che lavorano con lievito nel mondo, c'è uno scambio, ma essendo stato fatto questo sforzo a livello di consorzio di generare questa libreria dei geni deleti, esistono anche delle sorgenti dove possiamo acquistare, di fatto paghiamo solo le spese di spedizione, il ceppo che ci interessa, in modo da poterlo avere il ceppo standard sequenziato e quindi rendere gli esperimenti più riproducibili. Quindi questa è un'altra delle risorse un po' uniche di questa comunità. Poi il lievito si stanca effettivamente, in effetti ci sono anche studiosi che studiano l'invecchiamento cellulare nel lievito e ci sono dei modelli genetici che chiariscono alcuni aspetti di regolazione epigenetica, essenzialmente di chiusura o apertura del cromosoma sempre nel lievito e trovando cose corrispondenti a quelle che osserviamo nella cellula superiore. Grazie. Qualcuno vuole lievito per fare una domanda? Allora. un po' strano. Adesso, allora, ho detto che l'alimentazione dei nuclei oppure del manto concentrato per procedere alla loro digestione, ma in mio ufficio durante la produzione, già tener conto della concentrazione di lievito, della loro concentrazione di manto, per vedere che ci sono residui in eccesso, non digesti, non digeriti. Sì. Esattamente, sì, quello è un altro aspetto. Diciamo che ogni lievito ha una sua dose per ettolitro, per esempio. E sul lievito, comunque sulla il sacchetto di lievito, sulle specifiche, tendenzialmente ti danno una dose per ettolitro per arrivare a una certa efficienza. Io posso giocare con questa efficienza, cosa che faccio nelle mie birre. Per esempio, in quest'ultima qua, in questa birra qua, una birra molto particolare, fa 9 gradi e mezzo. E se io avessi usato questo lievito in questa birra qua e nelle dosi consigliate sul sacchetto, mi sarebbe venuta fuori una birra da magari 8 gradi e un residuo zuccherino alto, cosa che per, diciamo, il mercato italiano attuale è quello che si cerca. Quando si pensa a una birra alcolica, non faccio nomi, ma comunque birrifici artigianali grossi italiani, quello che propongono è una birra alcolica e dolciastra. Io questa è una cosa che detesto, perché secondo me una birra comunque deve essere, per quanto possa essere di alta gradazione, deve essere comunque beverina, quindi secca. E io ho sovradosato di lievito questa birra, quindi nel mosto ho messo, non dico il doppio, ma una volta e mezzo il lievito necessario che c'era scritto sull'indicazione classica. Questo ha fatto sì che il lievito, essendo in maggior numero, mi ha portato a secchezza la birra. Quindi con la stessa concentrazione zuccherina sono arrivato a un grado alcolico. Se mettevo un'altra concentrazione di lievito, mi rimaneva un residuo zuccherino naturale, per carità, era una birra buonissima uguale, però non era quello che cercavo. Quindi si può giocare anche col senso lì. Stesso discorso all'opposto, cioè la nostra bionda, diciamo, base, che è ispirata alle birre del Belgio. E se tu assaggi tendenzialmente una birra belga, la classica dorata da 5 gradi, non più di 5 gradi, sono tendenzialmente birre molto, molto amabili in bocca, non dico dolci, però belle morbide, delicate. Questo è dato dal fatto che usano dei lieviti che lasciano una piccolissima percentuale di zucchero nella birra, naturale anche quello, nel senso che non sono io che ce la aggiungo. Semplicemente sono dei lieviti che tu, per quanto possa dosarli, sovradosarli, loro comunque ti lasciano un residuo zuccherino. Quindi come bionda base mi è sembrato di avere questa birra stile belga, molto morbida e piacevole in bocca, e quindi abbiamo usato questo lievito che lui, quando si parla di 4-5 grammi litro di zucchero residuo, quindi una cosa veramente impercettibile, però abbiamo scelto di usare questo lievito proprio per avere questa tipologia di birra finale. Si può giocare con i lieviti, sì, cioè si può fare veramente una marea di cose. Prossimo? Ok, ci provo, in caso passate giro. Oh. Forse c'è poca condivisione a questo livello, perché in realtà l'interesse principale è di sviluppare varianti, ceppi per ragioni diverse, in più perché c'è anche un interesse industriale forte. Però sul lievito, se andiamo a Dublino, al laboratorio Guinness, o a Carlsberg, al laboratorio Carlsberg, ci sono fior di ricercatori che sviluppano questo aspetto essenzialmente legato alle caratteristiche della fermentazione. Quindi non necessariamente c'è molta osmosi a questo livello. Sì. E le metodologie, anche questo dipende. C'è stata un po' una selezione artificiale del lievito imposta dai ricercatori. No? I primi ceppi isolati, per esempio da Mortimer, erano molto difficili da maneggiare, perché uno cercava di isolarli, ottenere colonie, e le colonie magari una era piccola, una era grossa, una era segmentata, E questi fenotipi erano molto variabili, c'era un termine anche tecnico per questo, l'eterotallismo. E ovviamente il ricercatore vuole la vita facile e quindi cerca di prendere la colonia che gli piace di più, che ha la dimensione media. Quindi nel tempo c'è stata nella comunità scientifica l'evoluzione di ceppi, partendo magari da 3-4 progenitori, di cui adesso sono di fatto discendono tutti i ceppi mutanti, e man mano si sono uniformate e sono sparite molte di queste variazioni. La piastra che avete visto passare, le colonie erano più o meno tutte simili. Questo è un adattamento operato, diciamo, da selezione artificiale dello sperimentatore. Quindi c'è un modo di operare così, semplicemente facendo crescere il lievito in terreni più o meno selettivi, sfruttando quindi la selezione in questo modo. E con l'avvento della biologia molecolare si è imparati a fare invece la manipolazione specifica del gene di interesse. E questo ovviamente ha cambiato un po' l'approccio e anche la rapidità. Per fare un esempio di quanto artigianale era la ricerca, sempre di Mortimer, negli anni 50 lui scopre una cosa fondamentale, cioè guarda al microscopio e vede che alcune cellule di lievito sembrano avere dentro quattro pallini molto scuri. E da lì deduce che forse quelli erano prodotti di una particolare divisione che si chiama divisione meiotica, che avrebbe aperto le porte allo studio genetico più preciso. Il problema era come faccio ad aprire il contenitore di questo oggetto, perché era una parete cellulare molto resistente. E queste spore sono delle forme di resistenza delle cellule che possono permanere nell'ambiente pronte a reidratarsi. E quindi l'aspetto artigianale, come faccio a romperle? Sono microscopiche, non posso martellarle. Quindi l'idea è: qualcuno se le mangerà queste spore in natura. Ha pensato alla lumaca e ha scoperto in modo empirico che il succo gastrico della lumaca poteva essere estratto in modo abbastanza, insomma, non troppo traumatico per la lumaca stessa, e poteva essere usato per scomporre queste strutture. E da lì è nata una rivoluzione scientifica, perché era, se vogliamo, l'equivalente di quello che fece il famoso Gregor Mendel aprendo i baccelli di pisello e guardandoci dentro. Qui abbiamo una specie di baccello microscopico che apriamo con il succo gastrico della lumaca e ci guardiamo dentro, guardiamo come sono fatte le spore, ne possiamo prendere una, metterla a crescere e così possiamo separare i vari ceppi. Quindi insomma, si è partiti da lì e oggi invece abbiamo tecniche di molto più potenti e raffinate che ci consentono in poche ore di colpire un gene di interesse ed eliminarlo o modificarlo. E le prossime domande per uno o l'altro dei relatori? Nessuno? Io? No, vai prima. Mi ha detto che abbiamo spiegato troppo di notte e avevo quello degli OCM. Volevo sapere se la regolamentazione europea, nazionale o più sopra mondiale, si è preoccupata dei prodotti che provengono da organismi genticamente modificati, esistenti in cui io pastorizzo la birra e i prodotti più l'organismo in sé, posso teoricamente utilizzarli? Io non, sinceramente non so risponderti, non so se ci sono dei lieviti OGM. Posso dire che la ricerca veramente è arrivata a livelli che hai dei lieviti che sono superman in confronto a lieviti che c'erano 40 anni fa. Non so dirti se sono OGM, non so dirti quello. Non credo che ci sia una regolamentazione sull'utilizzo poi nella birra, cioè se si pensa a certe porcate che ci sono in giro fatte con dei malti e dei lupoli, che se li vedi come ti fanno a fare la birra non la bevi più la birra, penso che non ci sia una regolamentazione che ti impedisca di usarli, ecco, perché veramente trovi c'è in giro tante di quella che veramente non so dirti, forse non so, io OGM a livello di lievito non so rispondere, certo. Non ne so molto, però non credo che ci sia un grosso interesse a usare un sistema OGM in questo caso, perché è abbastanza semplice sfruttare i mutanti e le varianti naturali e la facilità di incrocio dei ceppi e la separazione degli aploidi con la formazione di spore per riuscire a sfruttare quello che è, diciamo, la palestra naturale. Sì, certo. Esatto, la transgenesi non ne sono molto al corrente, ma non credo che sia un bisogno così importante. Comunque, se siete interessati a questo ambito, il 19 maggio al Muse ci sarà un dottore in giurisprudenza che parlerà del significato giuridico di naturale, biologico e OGM. Ci capiremo effettivamente che cosa vuol dire non solo in biologia, ma anche dal punto di vista giuridico. E qualcuno ha domande? Allora ne faccio una io. E oltre ai rischi di debito stanco nell'ambito della ricerca, nell'ambito della produzione di birra, c'è il rischio di contaminazioni anche nell'ambito della ricerca? Prima accennavi al fermentatore lavato con acido per essere sterile. Se è mai successo? Allora, no, a me personalmente per fortuna non è mai successo, perché siamo molto attenti nella pulizia, insomma, in birrificio. Di solito un terzo del tempo che si passa in birrificio quando si è in produzione lo si passa a lavare le cose. Penso che sia un po' simile anche al laboratorio, insomma, deve essere tutto perfettamente sterile. Nel mio caso perché? Perché il mosto della birra, prima di iniziare la fermentazione, ha un pH neutro. Quindi forse qualcuno lo sa di voi che quando una soluzione ha un pH neutro è attaccabile praticamente da qualsiasi cosa che sia vivo nell'aria, insomma. Quindi tendenzialmente più le cose sono pulite, che vanno a contatto con questo mosto dolce a pH neutro, meglio è, perché poi quando arriva il mio lievito non ha dei rivali, nel senso riesce a riprodursi senza avere problemi di, cioè, quello che mi rompe le scatole che vuole fare aceto invece che fare alcol, perché c'è questo problema. Poi c'è da dire che quando inizia la fermentazione di solito il lievito è molto forte, nel senso che genera subito su pH naturale il suo ambiente, quindi è impossibile che all'interno di un fermentatore ci sia la sterilità assoluta. Però diciamo che quando viene inoculato il lievito è molto forte, quindi all'inizio della fermentazione è molto vigoroso, quindi si produce CO2, genera un sacco di altre sostanze che vanno a uccidere, diciamo, a prevalere su eventuali altri microrganismi che sono all'interno. Però comunque la pulizia è fondamentale, proprio perché non essendo vino, perché il vino quando prima di iniziare la fermentazione ha un pH molto acido, quindi sopravvivono determinati tipi di lievito nella fermentazione del vino. Invece nella birra, come dicevo prima, basta veramente qualsiasi tipo di batterio, di lievito che non sia della birra, e lui trova il suo ambiente ideale. Già nel vino, nel mosto d'uva, prima della fermentazione hai un pH un pochino più acido, quindi la porta si restringe e fa passare solo determinati batteri, determinati lieviti, quindi diciamo è più facile. Anche perché se pensate alle cantine, se volete, storiche, l'idea è quella di un posto tetro, con le ragnatele, tra virgolette sporco, e comunque magari sono cantine che fanno vini della Madonna e però 4 secoli che lavorano, quindi lì l'idea di, se vuoi, sanificazione è un po' diversa. Se andate in un birrificio artigianale piccolino, anche, cioè, fate così sul muro, non trovate niente, cioè deve essere veramente un laboratorio gigante, ecco, un birrificio. Sì, anche per noi la sterilità è importante, è più facile da ottenere perché lavoriamo con capsule di petri, quindi i nostri volumi sono molto più piccoli, quindi è più gestibile. E poi anche questa differenza, cioè un nemico potenziale potrebbe essere questo oggetto, no? Dei batteri, che sarebbero in grado in teoria di crescere più velocemente del lievito, quindi potrebbero prevalere nelle colture liquide o sulla piastra, ma sono sfavoriti rispetto al lievito perché il pH di coltura che viene generato sia preparando i terreni adatti al lievito sia grazie all'effetto della crescita dei lieviti non è quello preferito dai batteri, quindi questa competizione si riesce a convivere. Quando isoliamo colonie singole possiamo però a volte trovare dei contaminanti, delle colonie con dei colori diversi, delle muffe che hanno degli aspetti a volte anche molto simpatici, e su questo poi è nato anche una comprensione di un fenomeno naturale che qualcuno pensa sia molto importante dal punto di vista evolutivo, cioè il lievito che è in natura, che sta sulla la buccia di un frutto, convive potenzialmente con un altro gruppo variegato di altri microorganismi. E questo possono instaurarsi delle comunicazioni chimiche, quindi ci sono delle sostanze rilasciate dal lievito che controllano il tasso di crescita, per esempio, dei lieviti vicini. Quando guardate quella piastra, le colonie sono in genere separate, e questo lo sono anche perché c'è un pochino di inibizione tra colonie una rispetto all'altra, perché vengono secrete nel terreno delle sostanze inibenti, un po' anche delle specie di ormoni, se volete, quindi c'è questo controllo. E c'è chi pensa che alcune sostanze prodotte dal lievito possono essere utili come armi per competere in modo efficace in natura contro batteri o contro altri tipi di microorganismi. Però in laboratorio la contaminazione sui lieviti non è un grosso problema. Riesco anche io a coltivarli senza. Grazie. Qualcuno ha curiosità? Sì. Ho una domanda. Ma il lievito, non più quella mia realtà, ha alle altre naturali dei nemici mortali, tipo al di là di quello che può essere la temperatura, o il rapporto con l'acqua, in quella nostra realtà. Sono, non so, soprattutto la mente del mostro, aiuto, o le cose così, o la distruggo, E poi, se muori, tipo, non posso farvi sorgere? Sta nel mostro, ovviamente. Guarda, allora, tendenzialmente il momento più critico quando si parla di mosto di birra prima della fermentazione, cioè la regola è semplice: finché il mosto è caldo sopra gli 80 gradi ci puoi tra virgolette sputare dentro, perché qualsiasi cosa a 80 gradi tra virgolette muore. Quando hai visto il raffreddamento, la fase più critica va dai quando il mosto è tra i 40 e i 18 gradi, perché sotto i 18 già lavorano determinati batteri, sopra i 30 è come l'acqua che ho messo qua, tiepida, bella calda, cioè è l'ambiente ideale per qualsiasi batterio che possa finire. Quindi lì mi viene da dire, sì, se per caso tu apri il serbatoio dove si sta raffreddando il mosto, a quella temperatura lì puoi fare così con un pelo della tua valvola, perché lui secondo me rischi di infettare tutto, perché è proprio la temperatura unita al pH che distrugge tutto. Poi già a 18 gradi e con l'inoculo del lievito, come dicevo prima, il lievito è molto forte tendenzialmente quando inizia la fermentazione, quindi bene o male non c'è un grosso rischio di infezione, semmai è più durante la fermentazione, dopo, che possono nascere problemi. Magari un altro fattore fondamentale che non ho mai parlato è l'ossigeno all'interno del mosto. Noi non ce l'abbiamo in birrificio perché siamo veramente piccolissimi, però in un birrificio artigianale, diciamo di medie dimensioni, c'è una cosa che si chiama ossigenatore, che significa che il mosto, prima di entrare nel fermentatore, viene ossigenato con una bombola di ossigeno, e viene ossigenato, e è un fattore molto importante per il lievito, perché il lievito quando arriva giù ovviamente ha bisogno di zucchero e ossigeno. L'ossigeno, per quanto riguarda noi, lo prende, diciamo, da quella parte di fermentatore che c'è tra il liquido e il tanco, quindi sostanzialmente inizia a mangiarsi quell'ossigeno lì e poi inizia la fermentazione. Nei birrifici che non vogliono tra virgolette rischiare questa cosa, ossigenano il mosto con proprio, c'è il computerino che regola quanto vuoi ossigenare il mosto. Più ossigenato è, più una fermentazione vigorosa, quindi più cioè ci mette di meno a fermentare. Noi invece non abbiamo questa tecnologia, purtroppo, ma nel senso va benissimo con quell'ossigeno che c'è all'interno del fermentatore. E niente, sì. A livello di infezioni, sì, c'è questo fase di temperatura che è veramente micidiale, basta un attimo per mandare tutto veramente fuori. Questo implica qualcosa sul livello di, diciamo, batteri, o anche a livello di fermentazione? No, allora, sostanzialmente se ci va a infettare quell'arco di temperatura lì, poi tu la vai a pompare nel fermentatore, cioè nei lieviti, fondamentalmente magari la fermentazione parte, ma tu non te ne rendi conto che è una fermentazione malata, si dice, nel senso che produciamo tutto a posto, poi io prima di 3-4 giorni non posso toccare il gusto perché comunque non sento niente, sennò. Quando tu apri e assaggi ti viene da piangere, perché o sa d'aceto, puzza di piedi proprio, puzza, no, l'uovo, puzza l'uovo è un altro sentore del lievito, che è quando il lievito lavora sotto sforzo, nel senso quando va ad alte temperature tendenzialmente può puzzare di zolfo, di l'uovo. Però io so di gente che appunto si chiama fermentazione malata, dopo 4 giorni apre il fermentatore per assaggiare e c'è dentro di tutto, cioè sono veramente delle cose indescrivibili. Se succede a me mi viene da piangere perché mi sarebbe buttato via la birra. però te ne accorgi dopo, perché il batterio è andato dentro, si è riprodotto, magari convive con l'altro lievito, che un po' lavora, però magari un po' lavora lui, un po' lavora quell'altro, quindi insomma, si dà fastidio a vicenda che fuori non è vero. Altri con domande o curiosità? A me volevo avere una curiosità anche, comunque, visto che hai chiamato adolescenti praticamente, sì. Sono stati entrambi i primi rapporti con loro che erano anche un po' problematici, insomma anche di qualche episodio un po' particolare che mi li ha fatti amare e odiare. Episodi divertenti ne avrei una marea da raccontarti. Quello che mi viene in mente prima di tutti è le prime volte che facevamo birra in casa. Avevamo questo recipiente sigillato, ovviamente lavavamo tutto con l'acido eccetera, poi okay. Metti l'acqua, metti lo zucchero, metti il lievito e sono quei recipienti di vetro ermetici per la marmellata, per dirti, no? Cioè quelli che fai clac così, butta giù, chiudi. Sì, vai avanti, fai le tue robe. Cioè tu mi dici, tona. E ovviamente loro generano pressione, cioè il vetro era quello che era, quindi vetro dappertutto, soldi buttate via, perché io non vi ho parlato di una questione anche monetaria. Il lievito costa anche fino a 50 euro al chilo, cioè sì, per quanto riguarda il mio settore. E quindi sono dei bei costi anche quelli, insomma, se butti via una, cioè, se è capitato una volta, cioè, sei lì che stai attivando il lievito, bla bla bla, scivola questo bacinella, c'è cioè 100 euro di lievito, per terra, e dici, ma era il mio socio, che boh, dalla prossima paga ti rendo 100 euro. Nel senso, sì, poi vabbè, ci sono dei lieviti che noi abbiamo provato in tutti questi anni che facciamo birra, come dicevo, io ho provato veramente una marea di ceppi di lievito, e c'erano alcuni che quando fermentavano avevi paura veramente che stavano in una maniera allucinante, cioè sono degli odori che veramente dovete venire in birrificio ad annusarli, perché in fermentazione ci sono due lieviti che sono quelli belgi, quelli del Belgio, che hanno una puzza allucinante. Poi dici, qua, cioè, qua devo buttare via tutto, poi dopo il sesto giorno tiri via la feccia, scarichi, e da quella puzza immane che c'è diventano dei sentori vanigliati di fiori, di sambuco, che ci rimani di tutte le volte. Ogni tanto ci sono i miei colleghi che non si occupano della parte di produzione, perché sono io che mi occupo della cotta, comunque di stare dietro ai fermentatori. Ogni tanto magari passano e entrano e dicono, oddio, qui è andato tutto ai cani, no, vai tranquillo, gli dico, va che è normale, c'è questo odore, è normale, tutte le volte si spaventano. Sì, sono un po' sì, gli adolescenti da trattare veramente bene, perché a volte capita che c'è il mostro troppo concentrato, fanno la buffata, si uccidono da soli, perché a volte quando sviluppano troppo alcol, l'alcol va a finire che si uccidono da soli. Come per esempio nei vini dolci, il mosto del vino dolce avrebbe un potenziale magari per sviluppare 25-26 gradi alcolici, però per esempio il vino santo quando arriva sui 13,5, quei lieviti lì sopra i 13,5 muoiono, quindi loro producono un qualcosa che poi li va a uccidere. È assurdo, però funziona così, e lasciano un residuo zuccherino alto. Sono un po' particolari da trattare, veramente ne abbiamo avute delle belle. Sì, tocca anche a me, ok. È un po' imbarazzante questa storia. No, ok, allora, il primo incontro con lievito è avvenuto circa due anni e mezzo dopo che avevo iniziato a fare ricerca, ero ancora studente, e inizialmente lavoravo con i batteri. Il primo esperimento che ho fatto cercava di recuperare virus dai batteri, e a quel tempo non avevamo pipettatori, pipette di vetro, quindi a me toccava pipettare il cloroformio a bocca con questo, e da lì si capiscono tante cose, no? Comunque, influenzato da questo, poi ho iniziato a lavorare in un laboratorio che studiava un gene del cancro, e leggendo una pubblicazione fatta da un gruppo svizzero ci è venuto in mente che potevamo utilizzare il lievito costruito da questo ricercatore per farlo diventare un sensore a colori bianco-rosso per il funzionamento di un gene del cancro umano. Qualcuno di voi ha usato questo test in laboratorio? Okay. Allora il problema era come andare a imparare a usare il lievito, a prenderlo, a usarlo, quindi la storia imbarazzante è che parte del viaggio di nozze di mia moglie è stato quello di abitare dentro l'istituto di ricerca svizzero a Ginevra, a Lausanne, a Palange, posto abbastanza romantico, ma era anche un laboratorio, dove con questo ricercatore scozzese trapiantato in Svizzera, che ci parlava di whisky e altre cose, abbiamo cominciato a coltivare il primo ceppo di lievito, che abbiamo riportato in macchina nel nostro viaggio di nozze di ritorno. Avevamo paura di farlo morire perché doveva crescere in piazza, l'avevamo parcheggiato sul davanzale, magari di troppo freddo Val d'Aosta, insomma così, però è sopravvissuto, siamo arrivati a Genova, allora lavoravo a Genova, e da lì è nata questa collezione, sono esattamente 20 anni quasi, e adesso abbiamo nel freezer circa 4.000 ceppi diversi, quindi insomma da uno poi... Ok, curiosità o domande? Una domanda per una struttura che non ha tanto a che fare con la genetica. Al giorno d'oggi quanto è difficile riuscire ad avviare un'attività come la vostra, e in special modo quanto è difficile, indipendentemente da preventi e preventi, riuscire a reperire magari il lievito particolare che vuole per fare un determinato tipo di... E aggiungo io una domanda: se il lievito lo prendete solo dall'estero o anche in Italia e così via? Allora, due parti della domanda. Uno, sì, è difficile, tu non hai idea quanto, qui in Italia. E non credere che tutti dicono, siete giovani, tutte le aziende, la provincia, cazzate. Non prendi niente da nessuno, devi contare solo su te stesso, sei forte e sei sicuro delle tue idee. E dice, riesci a stare in piedi e vai avanti. Io vedo aziende che puntano sulla qualità, che anche in un periodo come questo di crisi stanno in piedi e anzi incrementano il fatturato. Secondo me, io sono convinto di questa cosa. Dall'altro punto di vista è molto invece facile, c'è un mercato che non solo nel settore, ma in qualsiasi settore ormai c'è una globalizzazione allucinante, cioè io posso andare a prendere il lievito sudafricano, come il lievito californiano, come il lievito neozelandese, mi arriva dopo due giorni in beneficio. Quindi da quel punto di vista lì non c'è nessun tipo di problema nello spostamento. Semmai il problema quando insomma, crei un'azienda come la mia, che è un birrificio artigianale, è proprio avere questo enorme bacino dove tu scegli e dove anche tutti i tuoi colleghi possono scegliere, prendere gli ingredienti e cercare qualcosa di unico e diverso. Perché è facile dire, ah sì, cioè fino a 30 anni fa ho fatto la birra con lupolo neozelandese, ah figo, perché non ci ha mai pensato nessuno. Boh, adesso fanno tutto, devi distinguerti. Devi distinguerti, vuoi usare quel lupolo lì, ma ok, magari come si diceva oggi, vai a lavorare su lievito. Perché magari birre fatte, per esempio, le American Pale Ale, magari forse adesso iniziano qua in città a sentire queste APA, IPA, queste birre molto profumate, è molto facile se volete farla profumata una birra, è molto difficile farla complessa. Perché se voi vedete una birra che sa di frutta di pompelmo, vado in birrificio, nel tempo di 30 giorni mi porto una birra che sa di pompelmo in una maniera originale, però non è complesso, sa solo di quello. Quindi bisogna essere bravi, ma come in qualsiasi settore, nel senso, che ne so, anche nell'edilizia, cioè nel senso, il materiale, cioè dappertutto, bisogna differenziarsi, bisogna fare un prodotto diverso, e secondo me in un settore come il mio, che è la birra, come può anche essere il vino, più una bevanda è complessa a livello aromatica, a livello gustativo, più è un prodotto di qualità. Se pensi, a me piace sempre fare questo paragone con le birre aromatiche e anche per esempio il Traminer. È molto facile andare in cooperativa a trovare un Traminer da 4-5 euro una bottiglia, lo annusi e dici sì, è profumato, è molto pungente, ma è molto difficile trovare un Traminer da 5 euro che sia complesso. Dicendo, se tu dai a un sommelier un Traminer da 4 euro, te lo trova subito che non è complesso. Ti dice sì, sa da Traminer, ma non è complesso. Quindi è molto facile fare un Traminer in una birra molto aromatica, molto profumata, ma è molto difficile farla complessa. E in una birra uso addirittura 10 lupoli diversi e non li uso in ugual misura. Ho dovuto in questi 4 anni tarare le varie proporzioni dei vari lupoli, perché uno è più predominante, l'altro è meno. Quindi devi arrivare a una complessità aromatica dove senti nello stesso tempo il pompelmo, l'ananas, la banana, la pesca, la foglia di tè, il tabacco, devono sentirsi tutti in uguale misura. Quello è quello sul quale un master birraio può giocare adesso come adesso, proprio perché, come si diceva prima, è tutto alla portata di tutti, basta solo prendere e fare un qualcosa di nuovo. Qualcun altro? A questo punto relazionami direttamente a questa idea che hai appena fatto, a cui hai appena risposto, che hai, che i medici sono tanti tipi e che hai appena trovato, perché è un po' una provocazione. Tu, che usi sempre gli antisettici, non prenderesti mai indietro che il prodotto della piastra che utilizzeresti per la tua fotografia? E professore, lei lascerebbe il suo lievito in mano a un mastro di Rai, dicendo come ci ha lavorato. Io della verità stavo per chiedere alla fine serata se aveva, se aveva qualcosa da farmi sperimentare in particolare, qualcosa che magari mi dava qualche profumo, perché io sono interessatissimo a questa cosa qua. E il discorso del lievito secco è una... io sono costretto a usarlo secco, perché il paese importatore non, cioè, me lo può mandare, della verità, perché sono dei corrieri refrigerati, ti costano 150 euro se usi di mezzo un camion per una 2 kg di lievito liquido, costa 250 euro di spedizione, quindi sono costretto a prenderlo secco. Ben volendo, mi sono dimenticato di rispondere prima, ben volendo se ci fossero lieviti coltivati qui in Italia e mandati magari liquidi, cioè già liquidi. Cioè, ci sono delle aziende che forse a breve nasceranno e spero di poter collaborare, perché comunque un lievito di buona qualità può essere prodotto anche qui in Italia, dobbiamo solo avere un'azienda che ci crede e lo fa. Ma domanda. Vai veloce. Aspetta che sta finendo di rispondere. Vai, velocissima, senti, non avrei nessuna remora a condividere molto volentieri, non penso di avere nulla di offrire per questo tipo di produzione, perché questi lieviti sono degli aploidi vissuti in condizioni ottimizzate per il laboratorio e quindi forse perché non l'abbiamo mai testati, non hanno una buona capacità di fermentazione nell'ambiente necessario. Il laboratorio conservare i lieviti vengono conservati a temperature sotto lo zero anche per alcuni anni. Nella verificazione il lievito, tu dici che un lievito costa moltissimo, per esempio importare un specifico centro, come vi regolate la conservazione, se è possibile per voi pagartelo, tenertelo in modo da utilizzare via qualche mese, via un anno? Guarda, fondamentalmente, come se si è visto, io sono arrivato qua, avevo questo pacchetto che era sigillato. Noi l'unica conservazione che possiamo fare è mettere il pacchetto sotto vuoto e tenerlo in freezer. L'unica cosa che posso fare, e comunque mi dura anche un anno, poi, nel senso, io essendo talmente piccolo ho degli ordini costanti tutti i mesi, quindi non ho mai un lievito che sta lì più di 30 giorni, quindi non ho questo problema. La cosa bella sarebbe, come tanti lievifici industriali hanno, avere un laboratorio a fianco, nel senso, è un risparmio di soldi esorbitante, perché quando il lievito fermenta nel silos e poi si deposita, quando si scarica la cosiddetta feccia che dicevo prima, io sono costretto a buttarla via, ma in un birrificio industriale che ha un'efficienza del 99%, quella feccia lì è lievito sostanzialmente, è lievito addormentato che ha finito di lavorare, lo prende, lo torna magari ad essiccare, lo mette sotto zero e anzi ha sfruttato il fatto che si è duplicato, si è riprodotto, per poi magari con una feccia di un fermentatore ne fa 10. Quindi nel senso si trova una massa gigantesca che poi va a smistare su altri 10 fermentatori. Quindi se io ti parlo di 50 euro al chilo, immaginati un silos, cioè risparmiare per un silos da 10 ettolitri l'uno, risparmiare questo e ripartirlo su altri 10, è uno di quei fattori che poi mi viene sempre da tirar fuori quando la gente mi chiede perché la birra artigianale costa così tanto. C'è una marea di fattori che purtroppo, se inizio a parlare adesso, finisco prima di mattina. Sono tutti procedimenti, cioè tutti i processi all'interno che veramente un po' qui risparmiano in una maniera allucinante. Che per un birrificio artigianale sono delle cose improponibili. Cioè. Io ho una curiosità per Alberto. visto che sappiamo che Christian utilizza il lievito per fare la birra, nello specifico nel tuo laboratorio che cosa utilizzate, che ricerca fate? Sì, lo utilizziamo non sempre, giorni alterni, siamo dipende anche dagli studenti, da chi lavora in laboratorio, che non tutti sviluppano questa passione, giustamente, ma principalmente per due tipologie di progetti. Una è quella di utilizzarla essenzialmente come un contenitore, una specie di cellula viva, che però noi vediamo anche come una provetta, quasi come una provetta, perché è possibile manipolare il lievito in modo molto preciso, facendo quasi delle reazioni che i biochimici fanno in vitro con componenti purificate. Quindi è possibile utilizzare ceppi che hanno la stessa costituzione genetica. Esistono dei sistemi, degli interruttori per l'espressione genica molto finemente regolati, quindi abbiamo imparato a utilizzarlo per assaggiare e valutare il funzionamento di proteine umane che trovano in questa cellula un ambiente favorevole. Quindi c'è anche qui un ricercatore che ha scritto che i fattori di trascrizione umani sono degli stranieri in una terra familiare, perché trovano dei sistemi, delle proteine simili, un DNA simile e un sistema di regolazione con cui possono dialogare. Quindi questo è un po' il vantaggio che usiamo. Il secondo aspetto, mi stavo dimenticando di due, quello non ce ne so, è invece quello di cercare di usare di nuovo la genetica del lievito per capire quali geni sono particolarmente importanti per proteggere il lievito da molecole che danneggiano il DNA. Alcune di queste molecole sono, visto dall'altra parte della medaglia, sono dei potenziali farmaci, mm-hmm. e quindi è possibile anche usare il lievito per capire un po' meglio il meccanismo di mutazione. Okay. Domande o curiosità da parte del pubblico? Al volo? Di rimbalzo. Bravo. Qual è l'aspetto che vi piace di più l'uno dell'altro? Domanda difficile. Ah, interessante, bravo. Comincio io? A me piace molto sicuramente la passione, perché senza passione non penso che avresti iniziato. Probabilmente la tenacia e tutto lo sforzo che avrei sicuramente fatto per arrivare a questo livello. E poi anche questa voglia di sperimentare. Probabilmente sperimento più di me, nel senso provare diversi lieviti, no? Magari andare su protocolli, cioè provare cose nuove. A volte il ricercatore in laboratorio deve seguire il protocollo standard, no? Perché se no non riesce a convincere i suoi colleghi che sta facendo le cose bene, no? Quindi questo è un po' questo aspetto, se vogliamo, più artigianale, questo è un po' l'invidio. Ma io spero, una cosa che apprezzo è che poi, ecco, io come dicevo prima, non sono un tecnico di formazione, cioè, io sono ancora iscritto all'università di Trento, quindi faccio ingegneria delle sono avvicinato al mondo da appassionato. Quello che, diciamo, invidio al professore è proprio la sua parte tecnica, di riuscire magari a capire, nel senso, perché se la birra mi sa dal zolfo, qual è la reazione chimica proprio a livello proprio scritta, interpretata, e qual è la molecola che magari mi identifica con la pizza. Mi piacerebbe proprio entrare nel merito e capire fino in fondo cosa genera questa cosa. Sì, il problema è che non lo capisco. No, comunque, perché certi lievi, cioè, nel senso, sarebbe come entrare nello specifico, per essere, se vuoi, anche più preparato, domani, se poi succede qualcosa all'interno dell'azienda, riuscirà a capire se è un problema del lievito, se è un problema di particolare. Qualcun altro vuole in peluche delle domande, delle curiosità? Nessuno. Allora, io faccio un'altra curiosità molto molto banale, forse. Come biotecnologo so che in laboratorio si utilizza il camice del laboratorio. In birrificio si utilizza il camice? Avete qualche, non so, abbigliamento particolare? No, allora sì, a livello di ASL sei tenuto non tanto avere il camice, ma comunque indumenti con la manica lunga. Ok. Manica lunga e indumenti che usi solo ed esclusivamente in laboratorio, perché alla fine è un laboratorio alimentare, a livello di ASL, quindi sono un laboratorio alimentare. Quindi sì, abbiamo i camici bianchi, lunghi fin qua, e ti assicuro che quando l'estate cuoci, sono 40 gradi all'interno del birrificio con due fuochi grandi così che bruciano sotto, di notte chi lo dico, chi lo nego, ma ho caldo e quindi no, altrimenti tanto non lo uso, ecco, sì, perché se arrivano veramente delle temperature dentro 40 gradi siamo arrivati l'anno scorso, quando sarà giornate proprio afose dentro un... E in birrificio, che dici che è ancora un'azienda piccola che sta crescendo, quanti siete, giusto per sapere quanti effettivamente lavorano nel laboratorio? Allora, noi siamo tre soci, cioè io e altri due ragazzi di 23 anni, okay, giovanissimi. Io sono appunto, mi prendono sempre per il culo perché sono il vecchio, quello che c'ha gli acciacchi, quello che si alza la padella, cioè che siamo alti schiena, quella, loro hanno 23 anni, quindi mi si permettono di dire così. Comunque sì, siamo in tre, facciamo tutto noi, dalla parte di produzione, ribottigliamento, marketing, tutto, design se vuoi, delle bottiglie, etichette, tutto, ci siamo proprio autocostruiti. Anche il capannone, il birrificio, l'abbiamo costruito noi. Nel senso che ci hanno dato un capannone vergine con i muri al grezzo, abbiamo costruito pareti, porte, impianto elettrico, idraulico, verniciato, tutto. Gran lavoro. Tutto noi è proprio artigianale. Cioè. Infatti se ci fa caso uno, magari un operaio edile che entra e guarda magari le rifiniture, quindi non solo la birra artigianale ma proprio il birrificio. No, il birrificio è artigianale. E penso solo che abbiamo fatto le fughe delle piastrelle del bagno con le fughe di queste qua per terra, cioè grosse così, e tu sono arrivato dentro che c'era il mio amico che, ma sì, ma di solito nei bagni non si vede la fuga, una fuga grossa, ma sì, vabbè. Passo la palla ad Alberto. Il laboratorio com'è? Grande, piccolo, quante persone ci lavorano? Sempre sullo stesso progetto? Sì, il laboratorio è sempre troppo piccolo, dobbiamo aumentarci degli spazi, no? Questa è la nostra cultura. No, praticamente condivido una stanza di 36 metri quadrati con un altro gruppo e il numero di persone varia. E in questo momento ci sono tre ricercatori che hanno finito il dottorato di ricerca, quindi sono di fatto indipendenti, seguono i loro progetti rispettivi, e due studenti di dottorato, e poi ospitiamo un po' a rotazione alcuni studenti di master o dell'altra area, come dicevo. Quindi il problema di crescere molto come laboratorio è che poi bisogna, questo lo dico per me, essere in grado di seguire i vari progetti, seguire le persone, quindi per me questo è un limite massimo. Ok. Altre curiosità dal pubblico? Se no io proseguo con la discussione. Ok. E quindi, confrontando le dimensioni, 36 metri quadri e il birrificio, non solo tre persone, com'è che è la... Ma la superficie, la nostra è attuale di 126 metri quadri. Ok. Che sembra tanto, in realtà è minuscolo. Cioè, di solito un birrificio di medie dimensioni artigianale sei sui 300 metri quadri, okay, perché tutto è più largo, sei più comodo, magari, cioè, io conosco birrifici in centro Milano che hanno 200 metri quadri e riescono a produrre dei volumi artigianali, basta stare compressi, però tendenzialmente l'idea del birrificio standard è minimo 300 metri quadri, spazi belli alti, ampi, distanza fra i fermentatori in modo da lavarli, da poter far dietro bene. Noi, se voi entrate nel nostro birrificio, sembra un po' di entrare a casa, perché abbiamo tante piccole stanze, non avendo il discorso di fermentatore a temperatura controllata, noi climatizziamo ogni singola stanza. Quindi c'è la stanza di fermentazione che è a 15 gradi, la stanza di rifermentazione che è a 20, e poi c'è la cella a frigo di maturazione della birra. Quindi nel senso, hai tante piccole porte, entri dentro, c'è il bagno, c'è il magazzino, poi c'è la cella a frigo, cioè tutto un scatolette in giro per il birrificio. Non siamo, ecco, classico birrificio che puoi trovare anche qui in Trentino, ormai ce ne sono tanti. Ok, domanda adesso per Alberto, un po' così. Mm-hmm. E sapendo che il birrificio artigianale dice che crescendo gli piacerebbe avere un suo laboratorio, eccetera, mm-hmm, e che ha degli spazi decisamente maggiori rispetto a quelli del laboratorio di ricerca, sarebbe fattibile o simpatico, non so, come dirlo, e appoggiarsi o aprire un nuovo birrificio artigianale e utilizzarlo come appoggio per il laboratorio, così da avere più spazi, una collaborazione, non lo so. Sarebbe una cosa da pensare. Per esempio, uno studente di tesi che viene a imparare, magari si potrebbero pensare cose di questo tipo. Sì. No, sì. Bisogna un attimo diventare creativi su questo. Beh, collaborazione, tra virgolette, ci sono già collaboratori di analisi, per esempio. se pensi comunque a San Michele, è molto attento, l'istituto agrario è comunque sempre molto attento ai birrifici negli ultimi anni, anzi è stato l'istituto che ci è venuto incontro e ci ha detto ma ragazzi, ma vi serve qualcosa? Se ne serve, voi siete partiti, nessuno niente, cioè sono interessati. Certo, è giusto che sia. È molto positiva come cosa, nel senso vedere che al di là del mondo del vino che è forte qui in Trentino, ci sia comunque l'interesse per queste nuove realtà che nascono, che comunque fanno prodotti del territorio, perché comunque l'acqua trentina, la birra è fatta del 95% d'acqua, quindi se è un prodotto trentino. Certo. Okay. Sempre per Cristiano adesso. Prima parlavi di queste birre belghe, se non sbaglio, che vengono fatte in questi enormi tini in Belgio, in valli in cui i lieviti vengono portati dal vento e che ti piacerebbe provare a sperimentarlo anche qui in Trentino. Il pericolo di, non so, di contaminazione nel senso di inquinanti, inquinamento e cose del genere? Sì, sì e no, ti dirò, perché vabbè, io non sono esperto dei livelli di inquinamento attuali in Valle dei Laghi, ma comunque c'è, cioè, ormai l'inquinamento c'è dappertutto, quindi sì, penso che anche in questa valle del Belgio c'è. Cioè, non è più come 4-6 anni fa, cioè. E se comunque riescono a fare birre della Madonna come fanno, penso che il fattore inquinamento magari va a incidere, sì, nel senso che magari ci sono un po' meno lieviti nell'aria, perché comunque saranno soggetti anche loro ai fattori inquinanti, però comunque il lievito poi c'è sempre, comunque magari farà più fatica a riprodursi e quindi sarà una fermentazione magari più lenta, non lo so, però non credo che ci sarebbero problemi. Cioè, bisogna studiare veramente se l'ora del Garda porta qualche lievito, perché fare una birra lasciata all'aperto, fatta fermentare con l'ora del Garda, io che amo il mio territorio, il mio Trentino, non è, sarebbe un sogno, un bel sogno realizzarlo, per dire, è la birra fatta con l'ora del Garda. Sì. Domanda adesso per Alberto. Mm-hmm. E prima accennavi al fatto che il lievito viene utilizzato principalmente per ricerca di base. In generale, quando si sente parlare di ricerca di base sui mass media, in televisione, nei quotidiani, spesso si mette in dubbio la sua utilità, e di questo parleremo anche nel prossimo incontro della settimana prossima. Se puoi darci un tuo piccolo parere a riguardo, senza entrare troppo nel dettaglio. Sì, no, è un argomento complesso. Però direi che è innegabile che senza la ricerca di base non avremmo mai capito dei processi fondamentali che poi hanno portato a delle scoperte molto applicative. Non lo so, collegato al lievito, forse magari è sempre la solita storia, però può essere emblematico il fatto che se pensiamo al premio Nobel come a un punto di arrivo che dimostra che è stato compiuto qualcosa di importante dal punto di vista della ricerca, se andiamo al 2001, il premio Nobel per la fisiologia e medicina viene dato a 3 ricercatori. 2 di questi non hanno fatto altro fino ad allora e anche dopo che lavorare con lievito per studiare come le cellule di lievito si dividono. E uno di questi, Lee Hartwell, dopo che ha preso il premio Nobel, poi diventi più famoso, comunque gli è stato offerto di dirigere il studio di ricerca dei tumori a Seattle. E qui in Italia abbiamo un esempio, a Milano c'è l'Istituto di Ricerca di Oncologia Molecolare Oncologico finanziato dalla FIRC e il direttore Marco Fogliani lavora da sempre e lavorerà per sempre con il lievito e per chi segue questa letteratura pubblica un anno sì, un anno no, su Cell, su Nature, quindi c'è ancora molto bisogno di comprensione di meccanismi di base. E poi da quelli però senza quella comprensione è difficile poter utilizzare un design razionale di strategia applicativa. Totalmente d'accordo. Però spesso è difficile interagire con persone che pongono il quesito, ma qual è lo scopo pratico diretto? Sì, questo è per esempio, io che faccio un po' di ricerca collegata alla ricerca oncologica, è un problema reale, no? Mi è capitato di andare a congressi ben organizzati così, dove l'inizio di ogni sessione scientifica era preceduta dall'introduzione fatta da un paziente che stava convivendo con la patologia che i ricercatori stanno cercando di combattere. E quindi effettivamente c'è questo distacco tra la comprensione di un meccanismo e la traduzione in qualcosa di concreto. È spesso legato alla complessità del fenomeno che stiamo cercando di affrontare. E questo lascia la mano in bocca a chi fa la ricerca, a chi la deve regolamentare, a chi purtroppo avrebbe bisogno dei frutti della ricerca. Da qui può nascere anche un po' questa domanda, a cosa serve? No? Cioè, a cosa serve studiare lievito Ok, grazie. Qualcuno ha domande o curiosità per concludere la discussione? No, ok. Sì, mi ha preso. Brava. Allora, sappiamo tutti che alla fine le cose che sono quelle che vanno avanti, per avanti i progetti sono dove, cioè, dove sono partiti con gli investimenti iniziali, soprattutto quando hai definito perché giovane, niente, una cosa così, e poi anche nel campo della ricerca dove si comincia. Poi un'altra domanda che Cristiana a casa ha risposto, che è il suo sogno, cioè fare quello che ho capito la birra con il vento. Sì. Con i lieviti presenti. Allora qual è il sogno per prima io? Ok. Sogno sempre, non so, direi che uno dei rischi che vedo è quello, e questa è un'espressione che si sente in tanti ambiti, no? È quello che nell'ambito della ricerca lo tocco con mano, è quello che uno fa rischia di rimanere soltanto carta, nel senso che alla fine siamo dei produttori di pubblicazioni che hanno un loro perché, una loro dignità, sono fatti con un certo livello, eccetera, però non necessariamente si traducono in qualcosa. Quindi il sogno di chi fa ricerca di base è comunque quello magari di riuscire a vedere qualcosa di queste idee, di queste osservazioni tradotte in un prodotto che possa avere un valore per la popolazione umana in questo caso. Sì, questo direi è un po' il sogno che abbiamo tutti. Sui costi, la ricerca effettivamente costa, il budget di un laboratorio piccolo come il mio facilmente supera i 200.000 euro, e quindi bisogna trovarli se vogliamo. E lavorare con lieviti ha un vantaggio, costa un po' meno che non altri progetti che abbiamo che usano acciaio superiore e altre cose. Quindi siamo dipendenti dalla competizione per fonti di finanziamento. Quindi una parte dell'attività è quella di scrivere progetti di ricerca dove non si racconta quello che hai fatto, ma si propone di fare qualcosa di originale. E siccome siamo in un mercato molto competitivo, bisogna anche imparare a scriverlo in modo accattivante e convincere chi legge, e convincere le associazioni o convincere i governi o la comunità europea che vale la pena investire su un laboratorio del Cilio a Trento piuttosto che su un altro, eccetera. Quindi poi questa è un po' la difficoltà. Beh, io invece un sogno, diciamo, lo sto già vivendo adesso, perché ho aperto un'azienda insieme a due miei amici, quindi un'azienda che posso dire che adesso va molto bene, e per il discorso dei fondi mi viene sempre un po' di acidità di stomaco, perché fondi noi non abbiamo visto di nessun genere, di nessun tipo. Siamo partiti con i soldi che ci hanno dato le nostre famiglie, quindi il nostro progetto grava sulle spalle dei nostri genitori ancora per adesso, e la banca ci è venuta incontro per forse un 50% dell'investimento totale, e niente, cioè adesso stiamo chiudendo il mutuo, perché le cose si vanno veramente bene, però non pensate che, come tanti si sente dire in giro, siete giovani, avete bisogno di la vera realtà qui in Trentino è che i soldi vanno in determinate zone, e l'artigianato, che sia birra, che sia qualsiasi cosa, è l'ultima rotta del carro. Quindi se fate un'app per l'iPhone, ve la finanziano, non serve neanche che tirate fuori un centesimo. La gente che invece crea un prodotto da niente, un artigiano, che possa essere birra, che sia legno, che sia qualsiasi altra cosa, io ne ho parlato con tantissimi altri imprenditori che stanno veramente soffrendo, perché, e anzi sono molto arrabbiati, perché poi, come ti dicevo, basta diventarsi, se non scusate il frangino, una cazzo di app di merda che ti danno anche tutto ti danno, e uno che invece si sporca le mani e crea un prodotto dal niente, dal nulla, e non prende niente. Per carità, la tecnologia va bene, ci deve essere, però a me vedere certe startup che vengono su per una roba che mi fa veramente per ribollire il sangue. Non abbiamo preso niente, forse prenderemo qualcosa più avanti, però si parla di. Cioè, mi hanno detto quando siamo andati a chiedere incentivi, mi hanno detto sì, ti diamo il 50% sull'elettricità, io ho un impianto che va a gas metano, perché non dire il 50% sul gas metano? Ah no, quello non prende niente. Va bene, ok, però il legname, magari il legname fatto in balde fiemme ti danno il 50%, quello non è una materia prima come il gas metano. E tu rimani lì così, ma dai, ti diamo il 50% sulla bolletta dell'elettricità, io consumo meno che a casa. Cosa vuoi fare? Mangiare una pista con incentivi dopo? Una pista al mese? Sì, beh, noi tre, noi soci, no, ma è una pista con incentivi. No, veramente, penso che al giorno d'oggi, soprattutto qui in Trentino, deve sparire quell'idea. Io sono giovane, apro un'impresa, tanto ce la mano in provincia, no? Se poi la tua idea non è forte, non è valida, se non arriva l'incentivo, crolla e fai. Cioè, noi abbiamo parlato con i nostri colleghi dei birrifici, questi discorsi li ho fatti con i miei colleghi degli attuali birrifici trentini prima di aprire, e loro mi hanno detto guardate ragazzi, anche noi dovevamo prendere il 34% di incentivo su un macchinario nuovo, ci è arrivato l'11% dopo 3 anni, e se non si parla di un investimento di 200.000 euro, dal 34% all'11% sono soldini. E quindi loro ci hanno detto ragazzi, voi partite, la vostra idea deve essere forte, dovete essere sicuri di quello che fate. Non partite con l'idea c'è la provincia che mi copre le spalle. Se poi viene qualcosa, qualsiasi cosa, anche in euro, va bene, grazie, bello. Però voi dovete partire con la vostra idea. Cioè, è sbagliato qui in Trentino, veramente tanta gente dice ah sì, faccio quello, tanto con gli incentivi. No, cioè, è qua in Trentino che l'idea è sbagliata. Se tu vai fuori da Trentino, l'imprenditore deve essere forte della sua idea, deve crederci nella sua azienda e deve crescere. Che poi venga l'incentivo, va bene, però... vabbè, dunque guarda il discorso per quanto riguarda i fondi, vediamo proprio solo fondi a livello piccolissimi, perché siamo il birrificio più piccolo d'Italia, quindi abbiamo un rischio di impresa che rispetto ai nostri colleghi del Trentino è molto basso. Se domani dovessi fallire non finisco per strada, finisco a non mi vengono a portare la casa, un investimento abbastanza piccolo. Più avanti si vedrà, perché adesso ci vogliamo ampliare. Adesso come adesso soddisfiamo se no un 15% delle richieste. Dobbiamo assolutamente diventare più grandi. Ok, se ho visto bene c'è una domanda al volo. Sì, era una domanda al professore, sempre rimanendo su questi temi. Una curiosità, se potete darci una visione su quanto conta in Italia il finanziamento pubblico e quanto conta il finanziamento da fondazioni private, per esempio. E se è così, se viene nelle proporzioni anche in altre realtà che con cui lei non contatto. Sì. E questa risposta cambia nel tempo. Ad oggi siamo in un momento difficile. Il finanziamento pubblico italiano, quindi i fondi infrastrutturali o i progetti di ricerca gestiti dai ministeri, Ministero della Salute, Ministero della Ricerca, Università, sono una piccolissima parte dei finanziamenti che un laboratorio che fa ricerca di base può ottenere. Infatti, per esempio, gran parte dei laboratori che fanno ricerca oncologica, ma non clinica, oggi sopravvivono perché esiste l'AIR, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, sopravvive perché ci sono volontari che vendono azalee o volontari che vanno a cercare donazioni. Chi fa malattie rare sopravvive in buona parte perché esiste Teletri. Quindi l'Italia è in questo un pochino un'eccezione, la comunità europea è una fonte di finanziamento consistente e concreta, che però ha delle sue regole, che possono essere ottime, ma privilegiano il ricercatore un po' più applicato, che lavora a rete e che ha già una connessione abbastanza aperta con la parte privata, quindi lo start-up farmaceutico o equivalente. E quindi non chi magari è un piccolo gruppo che vuole cercare di continuare a scoprire frammenti di conoscenza di base può essere più difficile applicare a questi finanziamenti accordati europei, ma non impossibile. Altri paesi sono un pochino, hanno possibilità un po' maggiori. In Germania esistono fondazioni pubbliche come la DFG che ha un'ottima rete di proposte di finanziamento. Comunque, come diceva qualche commentatore scientifico anche alla radio, è anche un momento in cui dobbiamo renderci conto che se facciamo la conta di tutti i ricercatori o scienziati esistiti su questo pianeta dalla storia della ricerca, la maggior parte sono vivi e stanno lavorando adesso, quindi c'è una, la comunità è molto più grande di prima, quindi la competizione è maggiore. Però se ci fosse una maggiore attenzione alla ricerca in Italia da parte dell'investimento pubblico, se ne sentirebbero le ricadute. C'è chi normalizza la produzione di ricerca dividendo anche per l'investimento fatto, e quindi se teniamo conto di questi parametri, l'Italia produce molto la ricerca. Negli Stati Uniti si spende 20 volte quello che viene speso in Italia, e quindi se facciamo, tenendo conto di questo vuol dire che la preparazione dei ricercatori italiani non è male. La capacità di intuizione o la creatività ci viene riconosciuta, quindi alla fine il problema economico è un problema reale. I limiti permettono l'attività? Assolutamente, questo è un altro modo di dire. Però poi si esagera creando questi limiti. Se non ci sono altre domande, prima di concludere pongo una domanda che spesso è forse scomoda, non lo so. Quale domanda porreste all'altro o quale avreste voluto che vi venisse posta ma non è stato così? Ok. E dovete prendere questo. Dobbiamo prendere questo. Chi comincia? Allora, quale domanda farei ma se lo rifaresti? Però so la risposta. Senza così. E l'altra era quale domanda? E avresti voluto che ti venisse posta? Qual è il gene sul cromosoma 15, il braccio no. Tutte le domande sono poste. No, io guarda, cioè, domande che... Fondamentalmente volevo entrare nell'ambito più tecnico, però magari fuori da questa cosa qua, e quindi chiedergli veramente di magari farmi vedere più nello specifico se ci sono poi delle conoscenze che possono aiutarmi anche, ecco, nel mio campo, perché io sono veramente curiosissimo e infatti faccio delle birre che parlano per me, quindi sono veramente molto curioso di queste cose qua. Poi non so che domanda avrei voluto. Non so, okay. Non c'è problema. C'è un innesto pubblicitario però. A Levico a settembre ci sarà un convegno internazionale di Lievito dove arriveranno di fatto tutti i ricercatori. La comunità di Lievito sarà a Levico Terme dal 6 al 12 settembre, e quindi potrebbe essere anche, e ci saranno anche dei momenti dedicati eventualmente al degustazioni, quelli sono ben bene. Potrebbe essere anche un momento informativo, no? Ti posso passare un po' di informazioni. Domande? Passare. Questo dai. Cambiamo. Avresti degustazioni anche dove torniamo questa è la domanda. Vabbè, purtroppo non qui stasera, e a Trento siamo alla Spina, siamo all'Uva Vinta, siamo all'angolo di 33, e questi sono gli unici due locali che hanno la Spina di proprietà, quindi possiamo vendere i fusti. In bottiglia siamo al Mochi, locale in via Malpaga, vicino a Piazza Italia. Siamo al Vicolo del Bo, al ristorante, siamo alle Due Spade, e adesso andremo anche allo Scrigno del Duomo. E siamo come rivenditore, siamo anche al Grado 12, l'Enoteca. Siamo al Bevicosmo, dalla Verona. Poi penso altri due o tre bar, ma siccome io non mi occupo della vendita, ogni tanto mi arrivano le fatture, vedo locali nuovi, non so neanche dove siano. Ah, siamo un albergo, in qualche albergo, non so dove, però qui in centro, non saprei dirti dove. Sì, poi non... Ok, ci vado dopo. Ok, benissimo. Allora io ringrazio i nostri delatori, ringrazio voi per essere venuti qui questa sera. E visto che abbiamo parlato di fondi, vi dico anche che tutto quello che facciamo come Italia Unita per la Scienza è totalmente senza scopo di lucro, siamo 21 studenti volontari. Se però volete aiutarci per le spese di cancelleria, sala, eventuali relatori, che a volte chiedono anche soldi, in questo caso no, quindi complimenti, grazie. E abbiamo un crowdfunding, lo trovate sul nostro sito che è italiaxlascienza, cioè italiaperlascienza.it, e se avete consigli, critiche, suggerimenti di quello che abbiamo fatto qua di questo evento, potete scriverci a trento@italia, sempre per xlascienza.it. Grazie a tutti e buona serata. Bella storia. Bravo. Sì.